La legge di cui parliamo è la legge regionale contro l'omobilesbotransfobia, approvata nel 2019, è una legge molto importante per la comunità LGBT dell'Emilia-Romagna, ma in occasione del dibattito su quella legge, anche in quel caso le destre e i politici di area cattolica utilizzarono la GPA come pretesto per contrastare l'approvazione di questa legge. Alla fine fu raggiunto un compromesso che prevedeva l'inserimento di questo articolo, un articolo molto grave, che non solo vieta l'organizzazione della GPA, che chiaramente è reato in Italia secondo la legge 40 ormai da molto tempo, ma anche la pubblicizzazione della GPA. Quello che noi crediamo è che il tema della GPA venga usato dalle destre per contrastare in generale i diritti LGBT in tutti gli ambiti. È venuto fuori nel dibattito contro la legge Zan, che poi è stata affossata, è venuto fuori nel dibattito sulla legge regionale ben 5 anni fa. Ora che le destre sono al governo l'hanno reato universale. È importante tracciare il percorso che certe istanze di destra fanno nel discorso pubblico e ricordarsi da dove vengono, ecco, e noi crediamo che questo sia stato un forte vulnus nel 2019 che va sanato, quindi chiediamo alle candidate regionali in che direzione vuole andare la nostra regione. Voi nel comunicato sottolineate che in un momento in cui tutti parlano di GPA, come dire, le uniche realtà che non possono farlo sono appunto quelle LGBTQ, pena la perdita dei finanziamenti pubblici. Questo è quello che dice l'articolo. La legge, la regione non concede finanziamenti pubblici alle associazioni che pubblicizzano la GPA. Chiaramente che cosa significa pubblicizzazione è interpretabile. Se organizziamo un evento a tema GPA, se parliamo con persone che hanno fatto la GPA, che raccontano la propria esperienza, se discutiamo anche della possibilità che questa tecnica procreativa possa essere legale anche in Italia, questo viene considerato pubblicizzazione? È una domanda che pende insomma sulle nostre teste, e in generale quell'articolo, non essendo un articolo inerente al tema della legge, va soltanto a, diciamo, ribadire una censura, un tabù totale sul tema che ci ha portato oggi ad avere questa tecnica procreativa bandita dall'universo, non so come dirlo, però la legge Varchi che è stata appena approvata è una legge completamente assurda. Se la sinistra in questa regione è d'accordo, può fare un passo in una direzione antitetica, ovvero cancellare quell'articolo e dire che in Emilia Romagna invece si vuole parlare di GPA, perché è importante parlare anche di che tipo di GPA stiamo parlando, come farla. Famiglia Arcobaleno ha tutta una serie di principi etici al riguardo che sono molto importanti, che non vogliamo insomma mettere da parte. Dobbiamo parlarne.